L'abbonata della settimana. Continua la campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko e continua la rubrica L'abbonata della settimana, con cui cerchiamo di far dire a chi sceglie di sostenerci le ragioni per cui lo fa, perché se lo diciamo noi ovviamente è molto facile, è un conflitto di interesse. Quest'oggi, anzi questa settimana, l'abbonata è Lara, che è al telefono con noi e che saluto. Ciao Lara. Ciao, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Allora, innanzitutto ti chiedo un po' che fai nella vita e come sei incappata in Radio Città Fujiko. Beh, allora, io faccio tante cose, in particolare, vabbè, sono un'insegnante, una docente, poi faccio tante attività che sono quelle che invece, come dire, c'è un lavoro che mi permette di sopravvivere, poi ci sono le attività che faccio per vivere e sono anche, faccio parte di un'associazione e probabilmente grazie a, come dire, l'attivismo che metto in pratica quotidianamente con i miei compagni e le compagne, insomma, sono anche incappato, ho conosciuto Radio Città Fujiko. Ecco, allora a questo punto vado direttamente al sodo: quali sono le ragioni che ti hanno spinta a sostenerci? Ma intanto perché Radio Città Fujiko mi fa compagnia da tantissimi anni, e anche quando, insomma, non sono stata qui, non ero in zona ma ero all'estero, mi ha sempre fatto piacere ascoltarla in streaming, era un modo per sentirmi un pochino più vicina a casa e alla realtà bolognese, e finalmente appunto è arrivata l'occasione per sostenerla in maniera attiva e ho pensato che appunto fosse arrivato il momento e non me la sono lasciata sfuggire, anche perché insomma di cose insieme ne abbiamo fatte, mi sembrava appunto una bella occasione di condivisione per sostenere la radio. Ovviamente noi ti ringraziamo per il tuo sostegno e a questo punto ti chiedo però anche se ci sono dei programmi specifici, delle tipologie di cose che appunto per le quali ci ascolti, o se è un ascolto così un po' generico. Beh, allora intanto premetto che non sempre Radio Città Fujiko è ascoltabile da queste parti, perché diciamo, sta in provincia. Provincia, ecco, sì, diciamo. Esatto, sto in provincia, però sono riuscita a sistemare l'antenna della radio in modo tale, insomma, che riesco quantomeno il pomeriggio e la sera riesco a ascoltarvi abbastanza bene, e ci sono appunto delle trasmissioni che seguo con particolare affetto, che sono Van Loon e It's the Kids Are United, e ogni tanto devo dire ascolto anche l'Indigest. Però mi faceva anche piacere sottolineare che non è solo l'ascolto radiofonico che apprezzo di Radio Città Fujiko, ma sono anche gli approfondimenti e gli articoli, insomma, quindi, come dire, l'informazione a 360 gradi. Su quale modalità hai scelto tra le varie appunto modalità? Ci sono il crowdfunding, ci sono i bonifici semplici, in presenza, quale hai scelto? Sì, io ho fatto il crowdfunding. Facile, veloce? Sì, ovviamente non ho scelto Flirt perché ritenevo che il Flirt fosse troppo poco per me, quindi insomma ho trovato una possibilità che mi sembrava più adeguata al rapporto che ho in generale con le persone, quindi un'amicizia con Benefit. Bene, ottimo, ottimo. E allora noi ti ringraziamo e insomma ci sentiamo sui 103.1. Grazie mille Lara. Grazie a voi, ciao.